Allora, siamo ora in collegamento con Cristina Valenti per parlare del Il Giardino della Memoria, ottava edizione di questa rassegna a Bologna dal 27 giugno al 10 agosto. Cristina, ben ritrovata su queste frequenze. Grazie, ben trovati a voi. Allora, per chi ci ascolta e non conoscesse il progetto, cominciamo raccontando come nasce quest'idea. Sì, l'idea è quella di ospitare nel Giardino della Memoria, così come appunto è stato intitolato questo spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica, ospitare in questo spazio delle iniziative artistiche, teatrali e musicali in particolare, proprio per, come dice sempre Daria Bonfietti, che di questo museo è stata l'ispiratrice e la fondatrice, abbracciare in qualche modo questo spazio, questo museo, con il segno dell'espressione artistica che da sempre, diciamo, ha accompagnato le iniziative dell'Associazione Parenti della Strage di Ustica a favore della memoria, per mantenere viva la memoria della strage, in particolare presso le giovani generazioni. E così appunto è da 8 anni che in questo spazio, in questo bel giardino che è appunto antistante il museo, viene organizzata appunto una programmazione teatrale, musicale, anche con appuntamenti di danza, insomma, dove appunto tutte le espressioni artistiche trovano spazio. Diciamo l'ispirazione è quella data proprio dal museo. Il museo, come saprete, ospita il relitto del 19, che è stato ripescato a molte migliaia di metri di profondità. È il relitto appunto del 19, dell'aereo che è precipitato nel cielo sopra Ustica, in quello che il giudice priore nella sua sentenza ordinanza ha definito un atto di guerra di fatto, combattuto nei nostri cieli in tempo di pace. Il relitto è stato ripescato pezzo per pezzo, riassemblato, rimontato in questa sorta di enorme, gigantesca scultura, tragicamente bellissima, anche perché appunto la bellezza, anche se tragica, drammatica, perché c'è il segno artistico di Christian Boltanski, che è, come sapete, uno dei maggiori scultori, allestitori, artisti, insomma, a tutto tondo contemporanei, che ha creato questa installazione permanente all'interno del museo. È uno dei musei, per chi si occupa di questa materia, io mi occupo di teatro, però credo di poterlo dire ugualmente, perché questa, insomma, è l'esperienza che tutti noi visitatori abbiamo, è uno dei musei più importanti, più belli, dove meglio è stato, diciamo, risolto questo rapporto fra memoria, necessità di fare memoria, e quindi, diciamo, realtà degli oggetti che appunto il museo conserva, e segno artistico. E quindi dicevo, perché questo è un po' l'ispirazione di tutto, perché lì c'è un segno artistico importante, veramente di straordinaria eccellenza, che contribuisce a portare avanti la memoria di questa strage, di cui ancora il cammino per la verità non è stato del tutto compiuto, e gli spettacoli che ospitiamo nel giardino vogliamo che ugualmente non siano spettacoli di intrattenimento, spettacoli e basta, insomma, ma che siano spettacoli importanti sul piano degli artisti e sul piano che li presentano, sul piano appunto del risultato artistico, per l'appunto, e però che portino un segno forte legato a due temi in particolare, quello della memoria e quello della verità. Senti, concentrandoci sull'aspetto teatrale, quanti sono le opere che presenterete per questa edizione? Sì, si è partiti appunto il 27 giugno, il giorno dell'anniversario della strage, con un lavoro dal titolo De Facto, creato appositamente per questa occasione dalla compagnia Ateliersi di Bologna, l'ex teatrino clandestino, per capirci, per chi si occupa di teatro. Loro sono partiti proprio dalla sentenza ordinanza del giudice Priori per creare questa opera prima, che ha debuttato appunto il giorno 27. Poi si continua con la programmazione il giorno 29 luglio. In questo caso è la Non Scuola del Teatro delle Albe, che porta in scena un lavoro, anche questo originale, creato con i giovani studenti della scuola media Zappa, che è una scuola che sorge nello stesso quartiere, il quartiere Nasile, dove c'è il Museo per la Memoria, e questi ragazzini, che sono una quindicina, porteranno in scena proprio dentro lo spazio del museo, in questo caso, non nello spazio antistante, questo lavoro, che si intitola È ora e adesso. È un titolo che è un'esclamazione e riprende il verso di uno dei canti rap che questi stessi ragazzi hanno creato. Quindi un lavoro originale all'interno del museo, e il museo insomma necessita anche insomma di qualche misura di sicurezza, insomma di tutela per questo spazio così prezioso, per cui lo spettacolo si svolgerà in due repliche la stessa sera, una alle 21 e una alle 22, proprio per in qualche modo dividere il pubblico. Poi avremo un altro lavoro, anche questo in qualche modo originale, perché si tratta Dopo la tempesta, scene da Shakespeare Novelle, ossia un'anteprima, un'anticipazione dello spettacolo che la Compagnia della Fortezza di Volterra presenterà in luglio all'interno del Festival Volterra Teatro. È la seconda volta che la Compagnia della Fortezza viene al Giardino, sarà un lavoro che coinvolgerà, si parte in questo caso alle 19:30 proprio per sfruttare anche la luce naturale. Anche in questo caso, come nel 2012, sarà un lavoro che coinvolgerà i presenti, quindi si chiederà un contributo ai partecipanti, si chiederà di loro di portare una croce, e vedremo in che modo Armando Punzo, regista di questa compagnia così importante, utilizzerà questo segno e la presenza dei partecipanti. Bene. E quindi diciamo abbiamo già ricordato tre spettacoli, tutti e tre in qualche modo originali, perché anche questo di Armando Punzo sarà un unicum, in quanto anticipa, ma creando insomma qualche cosa di costruito ad hoc per il Giardino, insomma, rispetto al lavoro che poi sarà presentato a luglio all'interno del festival. Cristina, per la programmazione Ci dai tutti i riferimenti web? Sì, certo, il sito è www.ilgiardinodellamemoria.it e lì si trova tutta la programmazione. Ci sono altri tre spettacoli oltre a quelli che ho detto, li dico molto molto velocemente. Il 14 luglio Gianni, sì, è lo spettacolo che ha vinto il premio Scenario per Ustica con Caroline Baglioni, una vera e propria rivelazione di cui insomma siamo felici come premio Scenario e premio Scenario per Ustica. Poi Le Fumatrici di Pecore, e qui siamo al Teatro Danza, mercoledì 20 luglio, con la compagnia Abbondanza Bertoni, che presenta un lavoro che vede in scena Antonella Bertoni e Patrizia Biroli, una danzatrice disabile. Poi ci saranno Roberto Castello e Andrea Cosentino, quindi di nuovo anche qui ai confini fra danza e teatro, con il Trattato di Economia, un coreo cabaret confusionale sulla dimensione economica dell'esistenza, come recita il sottotitolo, che si interroga proprio su questo, cioè sulla invadenza del denaro nella vita quotidiana, in un modo molto ironico, molto paradossale, ma anche molto serio. Poi si conclude, come è ormai tradizione, il 10 agosto, notte di San Lorenzo, con una serata di poesia, dedicata alla poesia, e di nuovo chiudiamo il cerchio di questa rassegna nuovamente con adolescenti. Siamo partiti dalla Non Scuola del Teatro delle Albe e chiudiamo con i ragazzini giovani in carico all'Istituto Penale Minorile di Bologna o ai Servizi di Giustizia Minorile, cioè l'area penale esterna, che lavorano ormai da molti anni con un regista di Bologna, Paolo Billi. Diciamo è a loro e a questi giovani che verranno affidati i versi di Pasolini, Fortini, Magrelli, Pusterla e anche di una giovane come Francesca Toscano. Benissimo. Cristina, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Vive il lupo e risentirci presto con molto piacere. Ciao Cristina. A presto, a presto. Cristina Valenti per l'ottava edizione del Giardino della Memoria a Bologna da ieri 27 giugno fino al 10 agosto.